questa qua è già, questa che sto modulando adesso. Ah ok, quella lì era una radio con 20 watt modulati alla Mantova, questa è una Sterlar con un Assyrio 2008, dai, con un'altra radio. Questa è l'altra, guarda, questa è la Mantova con una radio da 20 watt, ok? Ok, e questa è l'altra antenna, però renditi conto che è più bassa dell'altra, di un metro e mezzo. No, il segnale è quasi uguale, cioè la certezza di prima è questa, questa qua è la modulazione leggermente, va bene, quindi il segnale non è che ha cambiato tanto, va. Già da te è cambiato, va. Uguale, preciso, identico l'uno e l'altro, tu guarda tutti e due passaggi, tutti e due i segnali sono uguali. È vero, è vero. Vabbè, ma ha anche messo un radio diverso, confermi Massimiliano. Questa qui è quello là, dai. Vabbè. I watt, gli stessi delle stesse, gli stessi watt hanno le radio. Riportante bianca, sì, poi questo c'ha qualche picco in più modulato, va. Ma comunque è un'antenna che vale, perché se va così come la Mantova vuol dire che va bene. E ho voglia. Va bene, va bene. Vai Giulio. Ok, va benissimo con l'antenna, altro che se va alla grande veramente. Sì, Angelina, io di segnale quanto ti arrivo? Riesco ad arrivare senza lo 4? Ok, pensavo di me un segnale, comunque sono contento, purtroppo è strana la radiofrequenza, è molto strana, alle volte in certi posti si arriva bene, in certi altri no. Va bene, vediamo se è rientrato Riccardino. Riccardo? Sì, sono rientrato. E allora perché non parli? Perché ti dico, perché ho acceso proprio adesso che stavo cercando di fare un po' di radioascolto. Va bene, fai bene, anche il radioascolto è importante farlo, certo. Vediamo se c'è ancora Gianni da Mulos. Gianni, non c'è più, dai, forse non c'è più, io non lo sento più. Anzi, già lo sentivo basso poc'anzi, figurati adesso. Va bene, dai. Avanti Gianni. C'è un break. Avanti break. Forse non vi sente, vediamo un po' se sente me. Avanti break. Avanti il break. Oddio, non sei pronto ancora. Non torna a breccare che non ventri più. Avanti già. No, nemmeno io, vabbè, forse era in zona dove lo sentiva solo lui, io non lo sentivo, boh. Cava. Andava, niente, adesso cambio radio e metto quella l'altra che gli tocca oggi. Ce ne ho cambiate già tutte quante, tranne una. Adesso metto l'altra, quella che arrivo più basso. Prova Gianni, prova. Massimiliano, riprovato, non c'è niente da fare, squilla ma non risponde. Deve essere morto. Non lo so, tu il numero della nipote non ce l'hai per vedere se è successo qualcosa? No, ho chiamato un'altra persona e mi ha detto che tutto a posto, che continua a non star bene ma è tutto a posto, voglio comprendi, non sta bene ma è tutto a posto. Ah, vabbè, pazienza, cosa vuoi ti dico? Magari ha lettato, non c'ha possibilità di rispondere, cosa ne so qui, va bene, dai. Avanti Riccardi. Ok, vado avanti io, non so neanche chi c'è, se è entrato qualcuno di nuovo, tranne Muros che ne stavate parlando, perché come detto ho fatto radioascolto, è entrata molta gente mentre non c'ero. Sì, stai innescando Riccardo. Dico, non ho toccato niente, ho cliccato solo togliere dai canali salvati al 27 e sono andato su bande più basse e basta, non ho toccato niente. No, sta innescando, già va bene. Stava innescando prima, qua. Sì, prima sì, adesso va bene. Adesso va bene. L'ha sentito Fabrizio? Prima al telefono, sì. Ah, ok, va bene, ok. Allora, avanti, Lucariello. Andava, vai Giulio, riprendi. Ma sì. Ok. Sì, ma non riesco. Io non stavo facendo la depressione, ma non riesco a capire certe posizioni, dai, da un punto all'altro. Allora, Santa Rosette da Angelino è radio fortissima. Magari ad Alghero in altri posti non ci riesco ad arrivare, perlomeno, vabbè, no, nemmeno loro, sempre quello, non arrivo io, non arrivano nemmeno loro, perché quando c'è Valerio, se non mette lineare che ha da 300 watt, qui non mi arriva proprio. Arriva Santiago 2 ed il radio niente, proprio niente, soprattutto quando c'è QRM o nemmeno per sogno, mentre invece quando mette il lineare allora arriva a Santiago 5 e del radio riesco a capire quello che dice, ma non più di tanto però, per dire com'è la situazione, la posizione è molto importante. Vabbè che vado a Monteoro, io le Bari, che me lo presti il bulldozer, Massimiliano, che vado a Monteoro e butto giù la montagna. Giulio. Sì, dimmi. Scusa, Massimiliano, Angelino non è dentro Alghero come Valerio e come Sandro Conan. Angelino è all'aeroporto militare, capito? È molto prima di Alghero ed è molto più aperto verso Sassari, capito? Tant'è vero che c'è un segnale molto più alto sia di Valerio da me, sia anche di Sandro Conan, capito? Perché riesce ad arrivare da lui, non è dentro città. L'aeroporto civile, scusa, non militare, quindi a Fertilia è prima di Alghero, molto prima di Alghero, loro sono dentro la città, capito? Dov'è il tuo problema? Quindi arrivi tranquillamente ad Angelino. Verso i punti passi da lì, capito? Mentre loro no, e non passa neanche Giulio verso di loro, tu passi tranquillamente perché conosco perfettamente la zona, lo sai, c'è la campagna mia sorella lì vicino a te dove c'è Bellu, quindi lo so perfettamente, passi tranquillamente per i punti, mentre loro no, è lì il problema, che tu riesci a non avere l'ostacolo pieno di Monteoro, mentre loro lo prendono in pieno, capito? Siccome Giulio ce l'ha davanti, chiaramente lo ostacola, mentre tra te e lui riuscite a passare in mezzo, capito Giulio? Sì, ho capito, ma per dire com'è la situazione, la posizione è molto, ma molto importante, diciamo che è tutto, dai. Alle volte quando penso alla città che arrivo tranquillamente in Corsica e non riesco ad arrivare al vero centro, vabbè, comunque. Purtroppo la situazione è così e non la posso cambiare. Se Massimiliano mi presta il suo bulldozer, guarda, io vado e butto giù tutta la montagna di Monteoro. Cosa dici Massimiliano? Ci vuole un po' di tempo, però dai, almeno la parte dove ti serve a te si può fare, là. Non ce n'è problema. No, io Monteoro non ce l'ho davanti, perché io passo, diciamo, dietro Monteoro, dai, per Alghero. E lì il problema, come io ho detto tante volte a Giulio, tu essendo più avanti, vicino a Walter, e tu la passi, sei dietro la montagna, lui ce l'ha proprio davanti, Massimiliano. Sì, ma infatti, vedi bene, a me Angelino mi arriva a Santiago 8 qua, quindi... mi arriva bene, radio Super 5. Andà bene, io sono troppo felice di dover venire qua. Togliè, la Corsica ce l'hai davanti tu, che cosa vuoi contare? Tu sei libero per il mare, non c'è niente da fare, come sei libero per Sorso, per Castelsardo, per tutte quelle zone del mare, è chiaro, l'hai detto bene, la posizione è quella, non c'è niente da fare. Perché ho sbagliato, quando ho costruito la casa qua dovevo mettere le ruote, così all'occorrenza l'avrei potuta spostare, visto che sarebbero state le ruote, invece non ci ho pensato a mettere le ruote, ma pazienza, no, non è un problema. Avanti Riccardino, vediamo un po', facci sognare. faccio sognare che ho questo microfono amplificato perché voglio spaccare, più. Comunque, volevo chiedere a Claudio, visto che è radioamatore, ti volevo chiedere, ma che cosa posso ascoltare con l'antenna per la 27? Perché tipo un megahertz sotto i 3 megahertz non sento niente, perché mi ha detto Fabrizio che dobbiamo stendere il cavo, non c'è niente da fare, è vero, bisogna stendere il cavo da 29 metri. Dai, riprendo io e ti rispondo io, forse si è allontanato Claudio. Sì, ma anche con l'antenna che hai tu puoi ascoltare le altre bande, perché no? Puoi ascoltare i 40 metri sicuramente tutti i giorni, perché c'è sempre propagazione nei 40 metri. Puoi ascoltare anche le altre bande quando c'è propagazione, tipo ad esempio i 10 metri, i 20 metri e compagnia cantando. La sera puoi ascoltare anche gli 80 metri. Tu sintonizzi con le frequenze, sintonizzi, ad esempio i 40 metri sono sulla banda 7060, dai, e incominci da lì andando avanti canale per canale e riesci ad ascoltare anche i 40 metri sicuramente. Poi mentre invece per gli 80 metri devi andare su 3500 fino a 3800 MHz. Tu invece da il display invece quando metti con la frequenza l'ascolti, mentre invece per i 20 metri, per i 10 metri devi aspettare quando c'è propagazione. Praticamente quando c'è propagazione negli 11 metri, cioè in 27, molto probabilmente c'è anche in 10 metri e anche in 20 metri, tutto io, e poi ci sono altre frequenze che piano piano già le impari da solo. Avanti Riccardo. E ho capito, no, perché è sempre sull'1, 2 MHz che ci dovrebbe essere qualcuno, non c'è, per me è tutto brutto che servono le antenne giuste per quella frequenza. Un piento che c'ha radio, che sono un piento. No, non c'è bisogno di girare da 3005 a 3007. No, non c'è bisogno. Tu ti metti a 3650 e giri appena appena il WFO e da lì iniziano tutti la sera a parlare. Anzi, già da 3660, 65, 68, 69, 70, anche a scendere, 3630 in 80 metri c'è gente, non serve a niente stare a girare a punta a capo. Poi da 7115 in poi c'è sempre gente, 7100, 7120. Vabbè, ok, comunque è così, dai. Ricca, chi sa radio è un piento, o è un piento un microfono, o è un piento la radio, sto cercando di contare fino a 10. No, ma penso che sia il microfono, spero, perché la radio spero che non sia la radio, perché domani vediamo questi giorni che Fabrizio mi porta il microfono, capiamo subito se la radio o era il microfono. Ma il microfono normale non te l'ha dato? No, no, non l'ho preso, non sono passati. Come ti ho detto, l'MV25 l'ha già cablato per il Kenwood e ha detto che me lo passa. Io lo so che te l'ha già cablato. Io lo so, però ti ascolto così male, di nuovo, allucinante. Vabbè, dai. Ok, comunque, vedi un po', poi quando verrà lui, si arrangerà lui, dai. Non toccare niente, e se no prendi e ti attacchi il baracchino se vedi che stai uscendo male, così non fai casino, perché avanti doppio rum. Riprendo con questo, dai, non so come stia uscendo, sì. Anzi tolgo, aspetta che tolgo. Non voglio, ecco, dai. Così, come sta uscendo Claudio? Mi sento un attimo. Sì, scappa Giulio, bene, già. Radio normale, 5, perché non lasci l'ecco? Lascialo, ma chi ti dice niente? Lascialo appena appena che è bella con l'ecco. Guarda, così va bene. Sì, lascialo stare così a futtidini, non deve fastidio a nessuno. Sì, questa qui è quella che ho modificato, dai, il microfono. Scappa. Dai, adesso questo qui è il Cobra. Lo sto usando col Prox modificato, dai. capsula di altro microfono, eccetera, eccetera. Tutte capsule conservate, ne ho altre, ne ho diverse, dai. Però non so quali sono quelle che vanno bene e quelle che vanno male, quindi le devo provare. Per me va benissimo, Massimiliano. Sì, sì, anche per me va bene. Ottima radio, va benissimo. Vai, oh Angeli. Ascolta, oh Riccardo, prova a attaccare quel processore da quella radio. Ma vedi il CPU senza processore? No. Aumenta il mic, aumenta. Agganni. Aumenta ancora. Aumentato. Al massimo. No, negativo. Avvicinati però al microfono, oh Riccardo. No, non è al massimo il mic gain. E a quanto ce l'hai? A 4. Aumenta, aumenta ancora. Adesso sono a 6. No, non va bene, no. Ascolta, riportalo a 1,5 e riattacca il processore. Ti ha giudito, Massimiliano, abbiamo fatto con Fabrizio e c'è qualcosa che non lo so, va bene. Lo vedrà lui quello che deve fare. Io mi allontano un attimo, sono qua in quel Rix che mi preparo per portare il cane che mi vesto qui, sono in pigiama, bianco per me. Vai Massimiliano. Sì, sì. Vai Riccardo, prova 1,5 il processo non c'è dito. No, non è a 1,5, vabbè, a 2 comunque. Il processore. No, il processore è inserito e il mic gain è a 2. Ma ascolta, quando tu premi la portante, senza parlare, la lancetta dello smitter dove si ferma? Fammi provare. A 1, sta fermo. Cioè, quando tu premi la portante, la lancetta rimane ferma? Sì, non si muove. Va bene, dai, lasciala così, dai, lasciala così, fregate, avanti, doppio lu. Ehi, aia, magari era qualcosa la radio da vedere, non è solo il microfono, magari. Ma non so se Fabrizio si è reso conto che non si muove la lancetta, Manda me. Giulio, facci sognare, gala. No, ha detto che si allontanava, già, capito. Certo si allontanava. C'è Angelino D'Alghero, vai Angelino. Angelo! E con questa radio come mi ascolti Angelino? Guarda, questo qui è il Cobra. Cobra. Con un microfono che ho elaborato io, va. Andare, sono contento. Allora, il microfono normale me la faceva cuppa la radio. Allora ho dovuto lavorarci un po' su, vabbè, ma meno male poi ci si arriva, no? Non ti devi sbarazzare subito l'apparecchio, devi tentare tutte prima. Ma perché avevo abbassato la microfonia, capito? Ho sbagliato, dovevo abbassare il power e il mic gain. Praticamente ho toccato, invece che il power, ho toccato il mic gain, poi l'ho rimesso a posto. Questa è una radio normale, è un microfono normale, solo che gli ho messo il checco. Già va bene, anche a chi sa di lasci, già va bene. A voi a trenda. A musan trenda. E già va bene a sci. E a che sciattarda. No, a che sciattarda. Maiglia. Ma la che ti sbarra la sureglia che non parli tu la gay. E beh, se no per la Massimiliano che ora per il garese. Oh no, tua mamma era il garese. Mamma il garese. Ma io lo parlo quasi tutto. Io lo scimpio come dice mamma, che mamma lo parla, mia sorella. Io lo capisco tutto, ma lo scimpio. Dai, vado a portare. sentiamo dopo, ragazzi. Va bene. No, ti volevo dire, Clark, che quando schiaccia la portante, Riccardo, lo smitter non si muove, ma tu l'avevi memorizzata a Santiago 4-5, ma lo smitter ci rimane fermo quando schiaccia la portante. E se non c'è picchi di modulazione, non c'è niente con la radio, se non spinge, non è che è peggio di un microfono normale, c'è un microfono. Ma non è che deve aumentare leggermente il watt, no? Perché, ti spiego, ieri quando ha provato mi arrivava 9,20, adesso mi sta arrivando 9,10. Vuol dire che ha abbassato il watt lui? Porta il watt a Santiago 3, Santiago 4, il portante bianca o Riccardo? No, aspetta, spiegali come lo deve fare. Il contrario, anziché toccare il pomellino sempre nello stesso punto dove c'è Mikey Gain, anziché toccare quello nero, quello grigio interno, porta il segnale con la portante schiacciata, portati il segnale dello smitter a Santiago 4. Ok, adesso è Santiago 4. Altrimenti non è nulla, 9.30 ci arrivendi. Ma quello lì avevi toccato poco fa, ti sei confuso anziché toccare quello nero? No, avevo toccato quello nero prima. Positivo, vai a picchi negativi. Se te l'ho detto, c'è qualcosa che non va, non voglio poi Fabrizio si incatti perché mi ha detto seguilo, visto che ce l'hai tu uguale, però io non posso fare più di tanto, e cosa ci di va? Riccardi, rimettilo un pochettino com'era di nuovo e lascialo stare così. Se vedi che ti crea problemi, staccala quella, spegnila e attaccati il baracchino, Ricca, cosa vuoi ti dica? Fabrizio deve vedere queste cose perché io non ti posso fare niente. Io sto usando, guarda, la radio uguale alla tua tutta la sera. Non mi ha creato un problema. Evidentemente c'è da vedere qualcosa lì. Ho capito, va bene, adesso l'ho riportata a 4. Va bene, dai, lascialo così e modula così, dai. Fatelo modulare così, Massimiliano, intanto è inutile stare a toccare e tocca. C'è qualcosa da vedere lì, dai. No, perché mi ha detto, quando io schiaccio la portante, gli ho detto lago, io infatti gli ho detto questo, per vedere se aveva toccato il watt, capito? Infatti gli ho detto, quando tu schiacci la portante muta, lago, dove si ferma? E lui mi ha detto, non sale neanche. Come non sale neanche? Quindi qualcosina c'è. E vabbè, va, ok. Avanti, Lugaria. Luca gli ha dato, entra, va di una battuta, buon non ripiglia. Vabbè, dai, io vado a portare il cane, se ci siete ci sentiamo tra un quarto d'ora. Ciao a tutti. Gappa già, vai già, a dopo. Perché Luca è cuomame? Così mi dici se sta piovendo, Claudio. Ciao Natalia, buonasera, ben entrato, dai. Cava, da buio non rilancia e non ripiglia. Buh. Va bene, dai ragazzi, anche io mi allontano un secondino, ci sentiamo dopo. Là. Avanti, doppio ru, riprende, io mi sposto un attimo. Eia, va bene, va bene. Ciao Massimiliano, ci sentiamo a Pesci Greca. Avanti, Natalino, buonasera. Buonasera già, ciao Massimiliano, è Prussia. Natale, questo qui è il microfono che ho modificato, come va? Alla grande. Questo qui è il Cobra Homologation. Aiuto, regalala a me quello che mi serve. E così questo lo buttiamo nel cassonetto qui vicino. Io ti regalo questo e tu mi regali l'altro. Aiuto, bastardo, che quello è omologato. Mi serve un omologato che vada. Tu dici un obbedio di Cristo. Che poi di se va troppo disturbi non va bene, questo è un bello omologato. Cava sta un bene questo qua, se credi che costa poco sta un bene, se fa quello potete regalarmelo almeno, non mi metto problemi. Ehi, avanti Angeli. Angelino vi saluta tutti, Natalino, Riccardo, tutti quanti, dai, ciao Angelino, buon corretti e buona carica quando la fai, salutami Nadia, dai, avanti con Riccardino. Ciao Angelino, sì, già l'ho sentito me. Come mi senti con questo microfono? telefonino l'ho fatto io, Riccardino. Ma il segnale? Ah, la radio. Un po' così, non mi piace molto, era meglio prima. Senza ecco, così, guarda, Così è senza l'ecco, ti piace? Secondo me è meglio. Claudio me l'ha fatto mettere, poco fa, mi ha detto che riuscivo più bene così. Bene così. Buah. Ecco, a voi, Riccardino! E cosa l'hai messo? A 35 l'ecco? Al massimo. Guarda, ecco. A voi, Riccardino! Già è forte. Questo qui all'infinito l'ecco, capito? Fa per quello così. Poi anche Natalino, se vuoi c'è un due. Ecco. A voi. Alfa uno. Due. Natalino si chiama Alfa 1 di nominativo, lo sapevi? Alfa 21. Alfa 1 è Natalino. Lo so, l'ho scoperto da un po'. Gala. Via, avanti Natalino per Alfa 21, dai. Oramai tu sei... diciamo sei... come posso dire? Non mi viene, dai. Obsoleto. Ma cosa stai tu dicendo? Mi si raddormi. Ecco a voi Natalino Cuocomale. Ecco, quella roba lì. Cosa? C'è anche l'ecco davvero quella roba lì. Il BP lo puoi regolare come cavolo vuoi. L'ho regolato come quello Colt. La. Vale, so di quel mio amico che ho aggiustato. Ah, ho capito. Vabbè. Comunque questo qui fa un bel di cose. Cioè non c'è il baracchino l'ecco, ma c'è il microfono e va bene così. Cara. Luca, te lo ricordi come usciva questo qua, che era tutto cupo? Luca. Dimmi. Aspetta, te lo ricordi questo cobra come usciva tutto cupo? Sì, io me lo ricordo. Esce bene. Ho fatto questa modifichetta, Prox con capsula diversa e un altro ritocchino, dai, gli ho fatto. Ho fatto un ultimo lavoro già, bravo. Dai, ma ti vedo che sto smontando un display. Mamma mia, mi sta venendo la... Adesso ce l'hai tu, io non ce l'ho, baffa Napoli. Che microfono sto usando secondo te? Chi? Io. È normale. Questo è l'M93, però visto là, c'ha l'amplificazione al massimo e non amplifica un tubo. Mi sembra un microfono normale, boh. Gianni, sono rientrato, però vi saluto, dai, ci sentiamo. Ciao Gianni, Claudio, Massimiliano, Natalino che l'ho appena ascoltato, Riccardino e tutti quelli che ci sono all'ascolto. Angelino, Rapporto Tor, da Alghero, eccetera. Dai, saluto a tutti, chiudo, riprendi pure già. Ciao Giulio, ci sentiamo. Massimiliano ha fatto questa greca. Vabbè, Claudio è andato a portare il cane, ti risaluto io quando rientro. Dai. Buona serata, ciao. Ciao Giulio. Ok, ciao. Grazie già, ciao, grazie. Ok, ciao Giulio, anch'io vado in Correx, se ritorno ci sentiamo più tardi. Brecca. Avanti. Ciao a tutti, ho sentito Giulio di sfuggita. Ciao Giulio, ciao Gianni, ciao Luca, Natalino, Riccardino, chi c'è poi? Ciao Robè, ciao Giulio. Ciao, buona carica Giulio. Chi c'era poi? E poi c'era Claudio, è andato a portare il cane, c'era anche Massimiliano, è andato in questi greca. Non lo so poi se ci sia qualcuno all'ascolto. Boh, c'è Natalino. Pappalino c'è. E beh Natalino. Ciao Robè. E adesso che microfono sto usando? Io lo so perché l'ho sentito. E me l'ho fatta a tre. No, sto usando un MB più 4 adesso. Cacchio, non ho chiuso i fendi, prima dice una cosa e poi un'altra. No, poco fa stavo usando l'M93. Se Gianni mi ha detto che era il microfono normale, adesso sto usando l'MB più 4. E come tu non amplifica un tubo rumatese? Ma da lì sembra sempre lo stesso microfono, ci credi? Sì, perché non amplifica, è chiuso. Questo qui è l'omologato. Ah, tu li vuoi attaccare, chi su di voi? Se tu non apri la LC non amplificherà mai. E vabbè. Adesso purtroppo è così. Avanti Roberto. Ehi, ma c'è anche Riccardino, non l'ho sentito. Vai Riccardo. Ok, ciao Roberto, ben ascoltato. Gli ho dato quel microfono a Fabrizio, stamattina è venuto, non so se vi siete sentiti. Positivo. Questo cos'è? Quello che avevi ieri, sei sano? Sì. Ehi, dai, che già ti sistema tutto Fabrizio, ti fa un bel lavoro, dai. Vabbè, ma quelle tamere che ci aveva, l'avete sistemato? Manca la capsula, se la ferrende Fabrizio, alla fine ha scoperto che mancava la capsula. E non si può andare una capsula buona da rendere, dai, e anche se non è come quella del tamere più 3, una capsula di quelle verdi, di quelle di citofono. E adesso infatti Fabrizio doveva guardare in mezzo alla roba sua, se c'aveva qualcosa, ma già glielo risolve il problema. Fabrizio già è bravo nel suo campo. Poi vabbè, fare un microfono, mettere una capsula già è abbastanza semplice. Il problema è per provare il circuitino, perché di lì mancavano dei componenti oltre che i fili staccati. Chissà chi ci ha messo male. Già, non sta piovendo, conviene portarlo adesso. Ciao Roberto. Ciao Claudia. Vado. Io sono salito, quando mi hai sentito tu stavo salendo col cane, l'ho portato poco fa, l'aspetto un altro po' poi vado, verso le 8:30 lo porto. Speriamo che non piova, vabbè, se no già ci sono i furtici. Ma oggi mi tirava verso il portone, non voleva uscire. Perché ne risentono quando è così, ho bisogno di magari passeggiare e fare più strade. Va bene, dai, mi rimetto in sesto, avanti a chi tocca, buonasera a tutti di nuovo comunque. Buonasera anche a lì. È entrato Natalino e Roberto Quadrazzo, se tu non li hai sentiti, avanti. Sì, buonasera a tutti e due, Roberto già salutato, ciao anche Natalino. E prendi Natalino e fai girare, dai, che mi cambio di nuovo. Ciao, Cla, ben rientrato. Riprendi Roberto. Sì, chiacchia Natale, Murende, cioè col fiatone. Scusa? Col fiatone, sì. Perché? Certo, riprendi Roberto, se no va a cacchio, ti stessero strozzando. Sì, vabbè, dai. Sono annoiato, scoglionato e buh, non saprei cosa aggiungere. Ma con la mascherina stai modulando Natale? No. C'ho questo MB più 4, il nuovo amico. Solo che qua non va bene in questo baracchino, ho capito, no? Ci vuole un omologato che spinga un po' di più. Questo qui è proprio ui. Anche il microfono suo non va bene, l'M93 non va bene, nulla. Prova a fare la prova con l'M93 solo per curiosità, Natalia, cosa cambia? Niente cambia, mi ha detto Gianni che sembrava quella normale, aspetta che attacco l'M93 e svitto questo, ecco un attimo. Ma è già staccato la data? Guarda, questo è l'M93. Quando si va in città, se lo attacca in un altro baracchino ti sfonda le orecchie. Nuda, quasi niente è cambiato lì, stamattina si gozza. Sì, c'era qualcuno che voleva entrare? Sì, io. Chi è? Sono Giorgio. Fatela brava, se no vi buco il cavo dell'antenna, poi vi vanno le stazionarie e vi prendete il cancro al baracchino. L'amico di Natalino. Sì. Ma non c'era, chi è che ce l'aveva quello che cambiava la voce l'altro giorno? Marco Condor. Non ho capito quello che Infatti era fatto con qualche microfono di quelli che ti camuffano la voce. Marco Condor ce l'aveva un paio di settimane fa. Ah, lui era. Che faceva la voce da coso, da castratto. Chi era adesso sotto? Avanti. Marco è cuocuomane. Pure natalino però. Marco, facci sentire quel microfono con l'effetto strano. Vabbè, l'ho messo via, buonasera a tutti. L'ho messo via, è una cosa che si attacca alla cornetta del telefono di quelli vecchi. Non fa, ho tolto anche la batteria, dai. Ah, ok, dai. Adesso quando ho 5 minuti di tempo metto il mixer io. Ho fatto una circuitazione, diciamo, un sistema di commutazione che si poteva attaccare il microfono per voce, quelli a jack, e poi c'avevo l'uscita a 6 puli per attaccarla nel coso, nel baracchino. Adesso voglio fare una prova, siccome c'ha un bel di effetti, tipo come quello che c'aveva Pompogno, si chiamava Pinangelo. Ma Pinangelo, te lo ricordi quanti effetti faceva col mixer? Io ne ho uno, vabbè, c'ho un mixer serie, e poi c'ho quello lì per giocare la discoteca, c'ha tutti gli effetti, ecco, effetto giostra, effetto disco volante, un po' di più, computer, robot, un po' di roba. Guardati i microfoni, fatti l'occhio, vai. Guarda quella roba che ho preso oggi. Guarda il microfono originale della Game Quinta, guarda la tavola. Uno spettacolo. Ora dove stava da dire? Bello, bello. Ho detto roba bella ti è arrivata, Claudio. Bella roba. Ti mando solo 3 microfoni spettacolari, tutte e 3 funzionanti al 100%, l'ho provati stamattina. Poi ce n'è un altro tipo MC60, va bene, dentro l'armadio, ho fatto tutte le foto. Bella roba, dai. Claudio, quello di destra che cos'è? Non lo conosco. Quale roba? Quello di lei, quello è il microfono da tavolo del Persipson. Il microfono a tavolo del, ce ne ho 2 microfoni da tavolo di radio che è praticamente vintage, uno del Persipson, quello di destra e quello di sinistra è della Game Quinto, se apri ci sono anche le scritte, si vedono, e quello in mezzo è il Turner, l'Expander 500, che è una canonata, funziona a meraviglia, nuovi nuovi. Belli, belli tutti e 3, quello del Persipson non lo conoscevo, c'ha un sistema di sollevamento particolare, bello, il PTT è enorme, c'era. Sì, sono praticamente quello del Persipson, si solleva l'asta, si mette addirittura in verticale, si abbassa, mentre gli altri 2 si abbassa e si solleva dove c'è la caps, la sono tutte e 3 originali. Bello, bello, ma il pan c'ha anche il coso, motore di tono c'è. Sì, è un semi parametrico, là c'è il volume e il tono. Bello, bello, quello sì l'avevo già visto, però questo del Persipson non l'ho mai visto. Guarda, io me lo ricordo che c'era, però non l'ho mai avuto e non me lo ricordavo, ma è pesantissimo, è tutto cromato. È pesante, non lo so, è ferro cromato, non lo so, però è molto bello. E anche quello della Gain è particolare, c'ha il coso del volume del guadagno sull'asta dove tiene la capsula, bello. Sì. Non so, bella roba vi hanno mandato anche oggi. Va bene, dai. Ti volevo, stavi parlando il microfono, mi sono etichettato e non te li ho fatti vedere. Belle storie, belli veramente. Oh, una domanda, a parte il grazie di quella roba, là, ti devo ringraziare. Non è che c'è anche l'antennina di quella cosa che mi hai dato? No, va a chiedere la roba, diciamo di ringraziare, cazzo quante cose fai tu per me, ma stai scherzando? Ci mancherebbe altro, glielo chiedo se c'era l'antennina, che però quelle antennine lì, insomma, hai visto quelle piccoline con l'innesto di quelli piccoli, li ho visti da Fusaro, mi pare che costa neanche 5 euro, una cosa del genere. Ah, addirittura, vabbè, allora ci passo domani da Tonino e glielo chiedo. È completo di tutto, perché l'altro che abbiamo noi in officina non ce l'ha tutte quelle cose, c'è la schedina dentro, non so se tu l'hai notato, la schedina con tutto il coso, navigatore, dove c'è l'alloggio, ci puoi mettere anche la scheda telefonica, l'hai visto? Sì, ho visto, per quello te l'ho data, siccome tu lo metti nel camper e l'ho data per quello, vabbè, tanto io non me ne faccio niente. E insieme a tutta la roba che mi ha mandato c'era anche quella, capito? Quindi piazzala tu, perché io l'ho accesa ed è bellissima, è a colori, funzionante al 100%. Bello, bello, cercheremo di ricambiare quando capita. E infatti, cazzo, di ricambiare, sì. Tutte le cose che hai fatto, by me, te le devo ricordare, ma io, finiscila. Ehi, adesso. Ok, che è rimasto qua? C'è Gianni Doppio Rum, Natalino e poi c'era anche Luca, o sbaglio? Che è questo? Non ho capito chi sei, avanti. Io quando devo pagare pago, quando non devo pagare cerco di sdebitarmi, non ne ho problemi. Ehi, ehi. Avanti Marco, guarda che te l'ho mandato il microfono. Un attimo, dai, vi saluto tutti cordialmente e vado a mangiare, dai, ci sentiamo alle prossimine. Non so se ci siete, dopo quando torno mi porto il portatile appresso magari, dai. Ma portare il cane o mangiare stai andando giù? No, adesso mangio e poi porto il cane. Ah, ok, va bene. Va bene, vai Marco e poi Natalino per salutare a Gianni. Ehi, ciao Gianni, dai, ci sentiamo. Vai Natali. Ciao già, alle prossime ne approfitto per salutarvi tutti, anch'io me ne vado a mangiare. Ci sentiamo alle prossime, da, vi ascolto. Ciao Natalinos. Ciao Natali, ciao anche a Gianni, dai, ci sentiamo alle prossime. Marco, li hai visti i microfoni? A chi? Natalino, ciao Natalino, ti saluta Vannino. Salutamelo. Ciao Vannino, se mi ascolti. KK, li hai visti Marco? Sulle spalle 500 funziona la Dio, ma tutte e tre funzionano benissimo. Sono particolari veramente, non me li ricordavo, solo sono dei barragioni allucinanti, un bel grande insomma per mettere qua, infatti sto piazzando, organizzando l'altra base e li metto tutti con le radio vintage, non se ne va a vedere più, se no non va più il logo manco di moviti. Ma quelli lì, il DAC, che microfono c'ha amplificato originale già? Clavoli. Allora, e sul DAC ci va l'Expander 500 la connessione, però posso usarli anche tutte e tre sul DAC, sugli altri due, quello della Game e quello della Precipition ci vuole l'adattatore che ce l'ho. Stavo parlando l'altro giorno con Walter, mi ha detto che lui c'ha un baracchino ancora più grande del DAC, dice molto più largo del DAC, però dice non mi ricordo il nome, dillo a Claudio, cos'è il tuo baracchino enorme? Il tramp, non tram, tramp. Tramp, come è scritto? Tramp con la V finale. Sì, sì, sì, sì, è più grande, sì, del DAC, è più lungo, forse Walter non se lo ricorda, il DAC è più alto, però il tramp è più lungo. Più lungo, forse come larghezza ci siamo, però come altezza è più alto il DAC. E lui infatti mi ha detto è più largo di cosa? Il DAC dice che è un po' più alto, però come frontale dice è più grande del DAC. Tramf si chiama così. Sì, Tramf mi pare che si chiami, Tramf con la V finale, non vorrei sbagliare. Sì, sì, è una radio americana che è quella bellissima. Grandissima, enorme, ma l'avete cazzo, metto una, il DAC è una di quelle, non vi cade più la scrivania, preferisco avere altri vintage più piccoli, capito? Non lo trovo, devo cercarlo meglio. C'è un sito, che io non mi ricordo, devi chiedere a lui, c'è un sito di quelle radio, c'è un sito, ha detto anche Giulio, vintage, non mi ricordo cosa, devi digitare radio vintage, boh, non mi ricordo, comunque c'è un sito particolare dove c'è. Se vai in quel sito, peccato non c'è Giulio, se no te l'avrebbe dato. Ci sono, c'è anche il DAC. Eccolo, l'ho trovato, eccolo qua. C'ha gli strumenti giallini, così è. Sì, guarda quanto è grande. E c'ha l'altoparlante davanti. Sì, c'ha l'altoparlante davanti, come il Formal, come le solite radio così. Ma guarda quanto è grande, è tutto un cassone in legno, enorme. Lo sto guardando, una bella radio, grande, anche se il DAC mi piace di più. Il DAC non guardava, solo gli strumenti del DAC valgono oro, per come sono visivi, per uno come me che è mezzo cibio. Il DAC è DAC, come misura, sembra un amplificatore di quelli HF enormi, da 3-4 kW, è bella, bella, poi tutta cromata, tutta bella, bella, bella. Quello non è male, a me non piace. Non piace esteticamente, però è una bella radio, dai. Mi parlando di cosa me l'ha mandato un collega tuo, mi ha mandato un po' di giocattolini, probabilmente ci sta ascoltando, dai. Bellissime, complimenti se ci stai ascoltando, non diciamo il nome perché se vuoi entrare entra. C'ha quello lì che stai dicendo tu, il tram e sopra ne altri tre di giocattolini grandi. C'ha già lo so chi è. Il DAC ti ha mandato anche. No, no, non è cosa, non è Walter comunque, stiamo parlando di un'altra persona. Se vuole entrare, adesso un altro messaggio, se vuole, probabilmente ci sta ascoltando. Ho detto, lo so che non è Walter. Cosa c'è anche il DAC in quella foto? Adesso mi ha mandato, ma sta dicendo, sto saldando. E c'è anche il DAC, però mi dispiace dirlo, il DAC è DAC, dai. Forse perché io sono appassionato di alta fedeltà, di amplificatori, non capisco quello che c'è sotto il DAC, cosa c'è, che è bello lo stesso, bellissimo. Vabbè, il DAC ce l'abbiamo io, quella persona che ti ha mandato le foto e Walter, non ce l'altro nessuno a Sassari, quindi ci ho capito chi è. Sì, neanche lui. Ma fa un po' lo supero, fra un po' lo supero, in due settimane ne ho già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ancora me ne deve fare roba perché ne sto prendendo altro. Come microfono li hai visti quanti ne ho già, e tutti belli, tutti molto interessanti, belli. Vabbè, adesso devo piazzare l'altra base e poi li metto tutti come erano prima, dai. tutti funzionanti. Se vuoi ti faccio sentire l'Expander 500, mi ce l'ho qua con il Polmar 7000 DX vintage. Fammelo sentire, bellissimo questo BGR, è troppo bello anche questo, sembra una Kayak. Ah, il BGR, sì, l'ho avuto io, quello è verde. Quello l'ho avuto anche io, è verde, sul vergolino. Aspetta, ti faccio sentire l'Expander 500 della Turner con il Polmar. Che lui, io c'ho quello che c'è lui è l'Inuit, l'Inuit mi pare, o il Zodiac, adesso non mi ricordo, che ha lo stesso colore del Turner T2 che c'ho io, quello che mi è arrivato, Turner T2 da tavolo. Mentre io ho l'altro, ho il Polmar 7000, che è simile a quello che c'è lui, però è tutto nero e cromato. Adesso te lo faccio sentire, aspetta. Ehi, no, mi sta mandando un po' di radio l'amico, ha fatto qualche commento simpatico. No, bella, c'ha belle radio, non lo sapevo che anche lui avesse collezioni, dai, pensavo ne avesse qualcuno, ma cacchio, anche lui non scherza. Vabbè, ma a differenza di mio padrino è un'altra cosa, lui può essere ai miei livelli, più o meno, forse ne ha qualcuno in più, ma ti ripeto, io ci sto lavorando, in una settimana ne sono arrivate già 7, più però mi piacciono molto i microfoni, quindi sto puntando sui microfoni. Questo è l'Expander 500 della Turner con il 7000 DX della Polmar, base vintage, già lo conosci. Bella radio, dai, è anche molto forte come modulazione, bello, complimenti. Turner, non c'è niente da fare, pure sai, la mia modulazione non dà tregua, non ci sono dubbi su questo. Scusate se entro un attimo, vado in Corri X, ritorno più tardi. E poi sono già andato in Corri X, Riccardi? No, perché sei entrato e quindi sono rimasto un attimo. E comunque adesso vado in Corri X e ci sentiamo più tardi. Il Turner più 2 te l'avevo fatto sentire già, no, vabbè che l'abbiamo messo la resistenza per cambiare l'impedenza della capsula, quindi te l'avevo già fatto sentire, dai. Vabbè, questo è l'Expander 500 che ho abbinato al Polmar 7000. Vabbè, niente, questo e poi l'altro, quello della precipice, andrò a fare le connessioni. Però li ho provati stamattina, gli altri funzionano tutti, dai. 7000 DX? K, 7000 DX. Oh, anche questo SD è console 2, non è brutto. Console 2 ce l'avevo, l'ho venduto. Ne avevo 12 io di quelli. Console 2 l'ho dato a Gianni Capri 2. Però, vedi, quella persona, se io le dovessi mandare la foto del microfono, se ne è dita, perché quel microfono c'ho io. È da tavolo di quella radio, ok? Di quella radio. Di microfoni SD ne ho un paio, probabilmente è di quella radio lì proprio, no? Anche io, quello nero, con le scritte azzurre. No, quello che ti ho mandato a te, della gain, è il microfono al tavolo del console. Ah, pensavo che montasse i microfoni USB. Sì, puoi montare anche USB, ce le ho io, due USB, due ne ho, capito? Però sono da attaccare i connettori, Oggi mi sono arrivati l'Expander 500, quello da tavolo della Gain Quinto, il microfono a tavolo del Precipson, poi altri, un altro MB più 5 e uno tipo cantante, ok, con però il PTT ce l'ha sopra come l'MC60. Quello di mezzo molto bello, Claudio, ma sono tutti enormi, E quello è l'Expander 500 della Turner, questo lo sto usando adesso, questo è l'Expander 500 della Turner. Guarda, di tutti e tre, quello che di estetica mi piace di più è quello, nonostante abbia questa capsula tutta quadrata, no, molto molto grande e squadrata. Ma è bello, molto bello, c'è una bella, come timbrica non ci sono dubbi. Vabbè, il Turner più 2 te l'ho già fatto sentire, quello da tavola, quello celeste, bellissimo, nuovo. E li abbinati un po' a queste radio, però qualcuno ci ha fatto la connessione, qualcuno ci ha inserito il connettore, qualcuno lo sto usando con l'adattatore 4-4, capito? U2 c'hanno il connettore a 8 che li ho già provati sul Kenwood, vanno una cannonata, già li ha visti Roberto, e mi sono veramente appassionando a queste radio qua. Solo che ci vuole un po' di spazio, adesso io ho un'altra base uguale a questa che ho tolto davanti alla finestra e la sto mettendo sull'altro lato, ho preso i piedi, oggi me l'ho già piazzati, adesso devo passare alcuni cavi che non si vedono, poi le metto tutte in fila e ne ho 7, 8 basi più il DAC. Bianco il telefono, fermi avanti. Ho sentito la sirena, Robè. Perché ho fatto prima a parlare a te. Dai, continuate, vi chiamo su. Cioè, quando ti spilla il telefono lo sente tutto Sassari. Vabbè. No, sono bei microfoni, Marco, veramente, sono belle cose. Belle cose. Poi c'ho lo standard 5000, che non so, la foto te l'avevo già mandata, no? Standard hai detto? Sì, lo standard 5000DX. 5000DX è sempre un 23 canali più l'11 alfa e il 22 alfa. Sì, guarda, ci sarebbe da fare un radio museo, lo sai. Solo che vabbè. Ah, me la fottono da me. Le radio musei che fanno gli altri. Io c'ho il mio radio museo e ne avevo tante prima. Ne ho dato, tu immaginate, ne ho dato 4 solo a Roberto, di cui 2 decametriche addirittura, perché le ho dato la linea di Kraft e il Sommerkamp 101 Digital. Di quelle, poi gli ho dato altre. A Gianni Capri 2 ne ho dato un mare, ne ho dato 5, 6, boh, 7, non so. C'era il Courier, c'era un bel ce n'era comunque, dai, tutti i bassi, di cui c'era il console 2 e niente, poi altre sono, se non me le ricordo, comunque gli ho dati tutte a Roberto, quando ho smantellato tutto qua a Roberto e a Gianni, regalate, non è che sono stato lì a girarmi le balle. Adesso mi è venuta nuovamente la mania e le sto riprendendo. C'è un amico che conosco fuori Sassari che ne ha un bel, e siccome le sta tutelando me le sto prendendo io. Piano piano gli ho detto non me le mandare tutte assieme, le ho già tutte pagate, mandamene un po' per volta. La settimana scorsa mi ha mandato una scatto, adesso oggi è arrivata un'altra scatto. Fisso Maria, una miniera, ah? Una miniera d'oro. Ascolta, quello mi ha tenuto tanto, i soldi vanno e vengono, però mi piacciono, c'è questo Polmar che è favoloso, nuovo, impeccabile, nuovo, veramente nuovo, ce l'avevo simile, però era, adesso mi ricordo, c'era Zodiac o Inuiti, l'avevo dato a Marco, questo invece è nero, quello là è celeste, è come il Turner, che c'ho, come il Turner più 2, ti ho mandato la foto. Vabbè, lo standard non l'hai mai visto? Ti mando la foto. No, ma infatti quando hai detto standard non me lo ricordo proprio. 7000DX sì, che poi ha un altro nome, no? Anche. E quello lo stesso è un pezzo raro, pochi esemplari ne hanno fatti. Costava anche un pacco di soldi. Sì, questo lo c'ho io, sì, questa versione qua sì. Questa c'ha Mickey Gain, c'ha tutto. C'ha tutto questo, mentre l'altro che avevo non ce l'aveva il Mickey Gain, questo c'ha tutto, è più completo. Allora, ti mando la foto, aspetta, dello standard. Acceso, molto bello acceso, c'ha gli strumenti verdi, c'ha tre strumenti verdi, di cui uno avevo cambiato la lampadina e invece mi si è nuovo fulminata, quindi sono due accesi, però gli strumenti sono tre, si vedono. E la scritta del manopolone, il WFO, che è grandissimo, è rossa, capito? Il numero è rosso, mentre tutti gli altri sono verdi. Quando cambi il canale diventa rosso. I standby sono verdi, come gli smitter. Quando cambi diventa rosso. Infatti è sul canale 10, aspetta. Chi altro c'è qua? Sono entrato io. Sì, vabbè. La modulazione è normale, è tutto come al solito. Trovi qualche differenza? A me sta dicendo. No, non nota. Prova a parlare, ero un po' distratto, scusa. Ecco, tre dita dal mic, no, sapere se c'è qualche lieve differenza, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Te l'ho mandata, Eia, adesso controllo. Ti ascolto perfettamente io. E quella non ce l'ha nessuno, sono sicuro. Forse può averla Walter, ma in mezzo a tutte quelle che ha, non lo so, manco lo sa di averla. Però è un bel base, grigio color Kenwood, grigio color Kenwood, proprio uguale al grigio Kenwood, sia frontalmente che anche i cassoni. KK, quindi ti piace questa modulazione, Robè, no? Sì, anche bene, questo... Allora, fischiando da quasi 15 watt, sul parlato da 10 watt pieni. No, no, molto potente, chiara e forte. Vabbè, bella. Questa me l'ha fatta avere, questo poi, ma vabbè, me l'ha fatta avere Gianni Capri 2. Abbiamo fatto un cambio, però sono soddisfattissimo, c'è una ricezione favolosa. Ma è quartzato questo standard, non ha tutti i canali? No, è metà, si può fare 23 e poi aggiungere gli altri 23, ok? Cioè scusami, 23 ne puoi aggiungere altri 11, diventa 34 canali, però non si illumina se tu non vai a montare i quarzi, dietro, dentro, ti faccio la foto, dentro c'è una parte tutta libera dei quarzi e io non ce li ho purtroppo. Ehi, che strano, questo proprio non l'avevo mai visto, mai. Sembra quasi un apparato per scopi diversi, per scopi particolari. Come quando si lavorava sui canali sotto, ti ricordi? Le varie cose, no? Sì, un po' particolare, infatti è molto, molto interessante. C'ha funziona, accesa, vedi? Questo è lo squelch. Vedi? Funziona perfettamente, c'ha il volume. Attento, se guardi bene, ti faccio una foto particolare. C'ha tre potenze, il primo tasto a sinistra, l'RF out, c'ha tre potenze, guarda. 3 watt, 10 watt HI, capito? Una bella bestiolina anche quella, Beh, 4. 4 anche. 1, 3, 10 e AI. Sì, scusa, sì, nella calibrazione 1, sì. 1 watt, 3 watt, 10 watt HI. Quello in HI è 25 watt. Eia, guarda, la prima volta che lo vedo, proprio la prima volta che lo vedo in tanti anni. Vai Robè. Secondino che sto rispondendo. Vabbè, l'ho preso perché voglio essere un po' diverso anche dagli altri. Sto cercando un radio che magari Walter può avere sicuramente, perché ne ha tantissime, è un grandissimo collezionista, però magari altri non hanno, capito? Adesso oggi mi è arrivato le Simba, il Perception, che ho anche il microfono suo originale da tavolo, e un come si chiama? Un Tenco 46T, 46 canali, valvolare, Tenco 46T. Il tram di marca lo conosco e non mi ricordo la nazionalità dell'apparato, però ma non c'è più nessuno qua, solo noi, tutti spariti, tutti a guardare il TG. Non so, Marco, io sono andato a portare a Peppedu e poi Gianni doveva scendere a portare il cane e io sono rimasto un po' qua per far sentire a Roberto, come ci va questo Expander 500 della Turner? Che ti ho mandato la foto, nuovo. L'hai visto singolo o te li ho mandati tutti e tre assieme? Tutti e tre, ma si capisce bene. Sì, quello di mezzo, c'è quella a sinistra che è largo e c'è la capsula, cioè più piccola, no? Sai cosa mi ricorda quel Turner? Tu te lo ricordi 30 anni fa un microfono marcato Leson che aveva le forme simili? Sì, e come se me lo ricordo il Leson? L'ho anche usato. Guardalo bene, così ce l'hai inquadrato, favolo, guarda quanto è nuovo. È attaccato al precipizio, quello che sto usando io. Capito? È nuovo, ma nuovo veramente, proprio impeccabile, come si dice? Intonso, sì, eccolo, primo piano, sono un po' sfocate, la verità, ho mosse, perché non è a fuoco, però si vede bene. Expander, sì, il famoso Expander, sì. Ascolta, ma...